Radio 24. Libera la voglia di fare. Allora, sono tutti convocati e siamo tutti a disposizione. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Tu sai a tu. E gli buoni in aria lo spagnolo, al cross dentro, arriva Mertens, ancora Dries Mertens, palla in porta, 1-0 per il Napoli. A tollo fuoco cosce massa fuia, lassa sta. Fischia Doveri, destro secco di Mertens, 5 gol in 2 partite, 2-0 per il Napoli, che vola con Dries Mertens. Sulla guardia, Gagliecoli, col destro da lontano, Art con una mano, Mertens, non è tripletta, sì è tripletta di Dries Mertens, che in due tempi fa 3-0 e fa tripletta, ma che momento è per Dries Mertens, clamoroso! La Francia procida la Spagna, ehi vega te, tira ancora Mertens! Li abbiamo messi tutti, perché erano 4 gol di Mertens, 5 quelli del Napoli, 8 quelli di Napoli-Torino. 800-24-00-24, siete tutti convocatissimi. Fino alle 19 mi dovete dire il nome della vera anti-Juventus. Fatto questa scorpacciata di gol tra sabato e domenica, aspettando anche la Lazio. Ore 20:45, Lazio-Fiorentina, 800-24-00-24. Oppure, come dice un amico che ha scritto un WhatsApp al 349-238-6666, quest'anno il Natale ci ha portato un campionato già finito. Scudetto assegnato, retrocessioni certe. Caro Babbo Natale, ci sei andato giù pesante. Saluto Massimo Caputi. Ciao Massimo. Ciao, buon pomeriggio. Ci è andato pesante Babbo Natale, eh? Beh, diciamo che è andato pesante. In fin dei conti stiamo assistendo a quello che pensavamo tutti potesse accadere dall'inizio del campionato. Non è che possiamo rimanere stupiti della Juventus ora a 7 punti di vantaggio. Per certi versi potevamo essere stupiti che non l'avesse fatto già prima, che ancora anzi questo campionato fosse in equilibrio. Però io dico sempre che solo più avanti potremo dire che il campionato è veramente finito. Questo non per sfiducia nei confronti della Juventus, che reputo fortissima, però perché è giusto che sia così. Piuttosto diciamo che la Juventus è con pieno merito lì, perché è la più forte in assoluto, e lo dimostrano i fatti, e anche se vogliamo la bellezza del Napoli e anche della Roma è la loro imperfezione, cioè il fatto di non poter essere completi. Beh, la Roma ad esempio si perde in trasferta, abbiamo visto i numeri, poco più di un punto a partita. Il Napoli, ecco, la vera domanda di oggi è cosa sarebbe il Napoli se non avesse avuto quel passaggio a vuoto, secondo me fisiologico, dopo l'infortunio di Milik. Sono andato a rileggermelo, 7 punti in 5 partite, vincendo solo con Crotone ed Empoli, e con la sfortuna di giocare in quelle due settimane lì sia con Roma che con Juventus, Massimo, cioè una specie di gironcino da playoff scudetto. Sì, lo so, è vero tutto, però il Napoli, che è sicuramente una grande squadra e credo che senza possibilità di sbagliare, dopo la Juventus, Napoli e Roma sono le due squadre più complete e più forti, però proprio perché sono molto belle e forti, hanno però il limite di essere tali solo se tutto funziona. Al minimo contrattempo, che vuoi sia di natura fisica, che vuoi sia per un infortunio o per una come dire, un indebolimento mentale o caratteriale, hanno delle cadute che la Juve non ha, e questa è la grande differenza, è questa. perché il Napoli è stupendo, però oggi con il Torino comunque ha preso dei gol che se sta 0-0 si complica la vita, come gli è successo. Ti ha ricordato un po' la partita col Benfica, esatto. L'ultima prima del momento più difficile, 4 gol subito e poi secondo tempo con qualche amnesia di troppo. C'è chi scrive: si può dire che il campionato italiano è il più brutto d'Europa? Io non credo che sia il più brutto d'Europa. Io ad esempio in questo weekend mi sono molto divertito. Sono d'accordo con te, io credo che un po' noi siamo esterofili, insomma, per antonomasia, cioè pensiamo sempre che l'erba del vicino è sempre meglio della nostra. È chiaro che per esempio il campionato inglese ha dei giocatori, ha delle tante squadre sullo stesso livello, però anche da noi c'è equilibrio, diciamo che lo spezza la Juventus in modo particolare, e come hai detto te ci sono state delle belle partite, ci sono delle belle partite. Anche Milan-Atalanta è stata una bella partita, esatto, anche se finita 0-0 c'era la nebbia, c'è stato qualche errore di troppo, per carità. Sai cos'è meglio negli altri paesi, e ripeto soprattutto in Inghilterra? La cornice, perché noi vediamo dei stadi belli, pieni di gente, pieni di colori, terreni in condizioni straordinarie, sembrano dei tappeti. Da noi invece vedi stadi vecchi, spazi vuoti e terreni gibbosi. È ovvio che anche, è come andare al teatro, puoi vedere la miglior commedia e rappresentazione, ma se le sedie sono rotte e il palcoscenico è cadente, anche quel grande spettacolo non è più tale. Sì, il contesto non piace. Oh, a proposito di Premier League, da 12 minuti in campo Manchester City e Arsenal, vince l'Arsenal 1-0, gol di Theo Walcott subito all'inizio, questo per vedere chi si candida a rimanere in scia al Chelsea di Conte. A proposito del valore del campionato italiano, Conte che è atterrato sulla Premier League a ritmo di record, 11 vittorie consecutive, sta cancellando tutti i primati, oggi è forse il miglior allenatore al mondo, io lo dico, così come dico che Sarri secondo me è il miglior allenatore italiano, e faccio anche in parte mea culpa, ma essersi inventato ad esempio Mertens centravanti è un capolavoro che pochi avrebbero potuto e pensato fare. No, ma guarda, su Conte mi trovi pienamente d'accordo, e su Sarri altrettanto, con una, da parte mia almeno, qualche piccolo dubbio che mi lasciano allenatori straordinari nel proporre un certo tipo di calcio che però è sempre solo quello. E allora, siccome a volte nel calcio non tutto va come deve andare secondo dei canoni, ripeto, Napoli nel momento in cui ha passato, diciamo, forse non aveva ancora trovato le soluzioni per sostituire Milik, sta di fatto che sembrava anche una squadra un po' non al meglio sul piano fisico, per gli altri non è stato poi così complicato fermarla. Ecco, io credo che Sarri diventerà o sarà un grande allenatore italiano se riuscirà a trovare anche qualche variazione al suo modo di giocare. Però inventarsi un attaccante, un centravanti, che centravanti non era, e questo ti ripaga con 10 gol in meno di un girone. No, ma insomma, ci mancherebbe. Bisogna avere occhio, intuito e anche un po' di coraggio. Sicuramente, lo diciamo perché lo criticavamo, Sarri, perché non era in grado di far giocare Gabbiadini per mille motivi. No, ma io credo che anch'io ho criticato Sarri per questo motivo, quindi mi metto nel gruppo, nel tuo gruppo, ma dico anche però che la grandezza di un allenatore è anche quella, cioè di poter gestire situazioni che portano il solito canovaccio a non essere funzionale. Ora ha trovato la soluzione, quindi complimenti, e vediamo, adesso spero che però non sia un problema il ritorno di Milik. Sì, o l'attaccante che arriverà dal mercato, che si chiama, esatto, Pavoletti. Abbiamo il traffico, però ti rubo ancora 30 secondi prima di lanciare il traffico, perché mi piacerebbe sapere, a proposito degli allenatori, che voto dai a Spalletti di ieri sera, che ho letto molto criticato soprattutto sulla piazza romana per alcune scelte e per una Roma che poi se l'è anche giocata fino in fondo, ma soprattutto all'inizio ha dato l'impressione di essere un po' troppo timida. Sì, io credo che a stento prenda la sufficienza, perché non credo che la Roma abbia perso per colpa di Gerson e della scelta di far giocare Gerson. Però diciamo che quello che ha fatto discutere e che fa discutere è averlo scelto in una partita così, dove, tra parentesi, è vero che lui ha un bel fisico, ma tutto si può dire, meno che sia un giocatore abituato a fare sportellate. E quello che invece sarebbe servito nel momento in cui tu pensi di non far giocare per esempio El Shaarawy, no? Che sarebbe stato il giocatore la soluzione più logica, se tu pensi di non mettere El Shaarawy perché vuoi dare fisicità con Gerson, ecco, il dubbio viene proprio sotto questo aspetto, perché tutto è sembrava un pulcino spennacchiato ieri in campo. Sì, un po' come tutta la Roma nella prima mezz'ora, diciamo la verità. Poi dopo la partita è cambiata. Sì, certo, ma infatti la colpa, ripeto, io ho fatto una premessa, pensare che la scelta di Gerson e Gerson siano state determinanti per il risultato è un errore che non si può imputare né al giocatore né all'allenatore, però probabilmente sembrava, a mio avviso sembra ancora adesso logica, più una scelta di El Shaarawy. La Roma ha subito la veemenza della Juventus pur sapendo che sarebbe andata così, e credo che questo sia un elemento che deve far riflettere. Questa Juventus ha un'opulenza da un punto di vista della rosa, è fortissima in alcuni giocatori e reparti, però a mio parere è qualitativamente meno forte di quella che giocava con Pirlo, Vidal e Pogba. Sì, però è feroce alla stessa maniera, e questo è davvero qualcosa da studiare nelle università. Grazie Massimo. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Massimo Caputi. C'è già Gianni da Pistoia che ha chiamato l'800240024. Noi abbiamo il traffico, io però ve la butto lì. Per me Sarri è il miglior allenatore italiano, nel senso che allena oggi in Serie A. Cosa ne pensate? Vi aspetto. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. Tutti convocati. I numeri di Mertens oggi sono fantastici, 10 palloni toccati nell'area avversaria, 5 volte ha tirato nello specchio della porta, ha fatto 4 gol. 800240024, Gianni da Pistoia. Gianni. Sì, ciao, buonasera. Eccoci. Senti, io sono molto contento perché, appunto, come dicevi te, dopo aver visto oggi il Napoli di Sarri, insomma, è un bel vedere, ecco, un impianto di gioco dove tutti moltiplicano le loro qualità, insomma, no? Che va a rendere il 100%. Penso che dopo il Milan di Sacchi è una delle squadre più belle che si è visto ultimamente. Al contrario della Juve, a me mi annoia da morire la Juve, non so cosa ne pensate voi. Grazie. Io non penso, Gianni, che si possa dire che la Juve annoia. La Juve gioca bene, gioca un calcio particolare, gioca un calcio feroce. Ieri secondo me l'ha fotografata benissimo dopo la partita Spalletti, dicendo soprattutto quando la Juve può metterla sul piano dell'intensità, quando può chiudersi, quando deve difendere, quando è in certi momenti fa un gioco che nessun altro è in grado di fare. Sono degli animali, ma animali in senso positivo. La Juve è così, e poi a tratti gioca anche bene, poi ha dei meravigliosi solisti. Il gol di ieri di Higuain se l'è inventato praticamente da solo. Però il Napoli gioca davvero un calcio che oggi in Italia non fa nessuno. Massimo Paganin, ciao Massimo. Ciao, buon pomeriggio. Reduce proprio da Napoli-Torino, commentata per Mediaset Premium. Beh, ti viene in mente un paragone per Mertens? Cioè un esterno che si ricicla centravanti e lo fa con questa resa? Beh, è difficile, anche perché la verità non c'ha proprio il fisico del centravanti, no? Nel senso che lui è un esterno, è molto basso, un brevilineo per quello, e quindi non è facile trovare la giusta posizione e soprattutto avere quella capacità di attaccare con i tempi giusti lo spazio così come fa lui. Oggi è stato veramente incredibile sul piano del gioco, perché ogni azione praticamente nella quale aveva la possibilità di attaccare la porta ha messo in difficoltà la linea di difesa del Torino, poi soprattutto ha fatto un quarto gol veramente strepitoso, indice di grandissima fiducia, di consapevolezza. Sì, lo raccontiamo per chi non l'ha visto, era dentro l'area di rigore, posizione leggermente decentrata, ha fatto partire una cosa che inizialmente poteva sembrare un cross, ma in realtà cross non era, e si è infilato alle spalle del portiere del Toro, quasi sotto la traversa, praticamente imprendibile. Ma è il Napoli l'anti-Juve o stiamo sognando, nel senso che il campionato è già finito, come scrivono in tanti del resto? Diciamo che non è facile trovare l'anti-Juve, nel senso che una squadra con quella forza, con quella consapevolezza, con quella determinazione, quella convinzione non è facile da trovare. Il Napoli dovrà cercare di trovare equilibrio, trovare un po' più di maturità, di consapevolezza e fiducia nei suoi mezzi. Poi quando incontri la Juve nella partita, nello scontro diretto, non è una cosa semplice. Ripeto, 7 punti sono tanti di vantaggio sulla seconda in classifica. Considerando la Juve di adesso e soprattutto le squadre che stanno dietro, vedo difficile che qualcuno possa colmare questo gap. Scrive un amico se il mercato che porta un centravanti rischia di peggiorare o migliorare questo Napoli. Non lo so, non sarà così semplice, nel senso che secondo me dopo che Milik si è fatto male, dopo la partenza di Higuain avevano trovato un equilibrio con Milik che si è fatto male. Adesso hanno trovato un nuovo equilibrio, quindi dei nuovi movimenti, soluzioni diverse, e andare a toccare degli equilibri non è una cosa semplice in una squadra che funziona e sta facendo tanto, perché il Napoli ha segnato 37 gol in questo campionato fino adesso. Sì, un anno fa erano 31. Esatto, sto dicendo, ne ha fatti 6 più dello scorso. Esatto, 6 più dello scorso anno con un Higuain probabilmente che accentrava il gioco tutto su di sé. Invece in questo momento il Napoli è riuscito a distribuire bene le responsabilità e fare in modo che ogni giocatore renda il 100% nel proprio ruolo, e di conseguenza sta facendo un ottimo campionato di nuovo ancora, e credo che fino alla fine della stagione insomma la squadra di Sarri lotterà per il secondo posto. Non lo so se potranno insidiare la Juve, come ho detto è brutto dire che a dicembre il campionato è già finito, ma è chiaro che, ripeto, non vedo delle squadre che dal punto di vista della personalità, della gestione delle situazioni, della capacità del rendimento possano contrastare la Juve, perché vorrebbe dire vincere tutte le partite da qui alla fine del campionato, praticamente sperando che la Juve possa fare dei passi falsi. Sì, cosa che quest'anno ha fatto, ma poi insomma quando c'è da tirare le fila siamo sempre al solito punto. Toro male oggi, decisamente. Sì, Toro male nell'approccio alla partita, ha concesso i primi 3 gol alla Juve, di cui i primi 2 sono state delle grossissime disattenzioni, perché il primo è stato su un calcio d'angolo, si è ritrovato dal di fiori in 2-1 con Ljajic che non è andato a dare una mano al compagno, di conseguenza Ghoulam e Kayekon hanno fatto un'azione tra di loro vicino alla linea dell'area di rigore, poi hanno messo questa palla dietro per Mertens, che è riuscito a smarcarsi e calciare in porta, e sul secondo di nuovo un lancio lungo per Mertens e l'esterno basso Barreca ha fatto un fallo da rigore perché è arrivato in ritardo sulla chiusura. Ripeto, 2 errori quando concedi un 2-0 ad una squadra come il Napoli in casa sua diventa poi tutto più difficile. Poi si è tenuto anche il terzo gol, e di conseguenza da lì poi la partita era quasi finita. Ha provato a riaprirla nel secondo tempo con l'ingresso anche di Falke, che ha fatto meglio, ha dato diciamo così un po' più di fiducia e autostima alla squadra, che in fase offensiva è riuscita a mettere in difficoltà il Napoli. È vero anche che secondo me dal punto di vista mentale il Napoli aveva mollato poi sul 3-0, ha concesso un po', e nel momento in cui il Torino si è avvicinato di nuovo ha riaccelerato per poi prendere di nuovo le distanze. Sì, resta quello il limite del Napoli. Ancora un paio di messaggi. Il Napoli gioca il miglior calcio d'Europa in questo momento, superiore pure al Barcellona. Se in questo momento prendiamo questa settimana magari sì, però insomma andiamoci piano, Massimo, no? Con i paragoni. Sì, no, è difficile, sì, è difficile poter fare dei paragoni. Comunque veramente sta giocando un gran calcio fatto di una fitta rete di passaggi, ma soprattutto di qualità nei passaggi e di grande capacità nell'attaccare lo spazio con i tempi giusti e disponibilità da parte di tutti i giocatori, perché sia la fase offensiva che la fase difensiva l'ha fatta tutta la squadra, e di conseguenza tanto è vero che il quinto gol l'ha fatto Kirikes partendo dalla sua tre quarti, facendo un anticipo e poi alla fine della partita fare un allungo di 60 metri per andare a concludere nell'area avversaria. Significa grande disponibilità dal punto di vista mentale, significa grande fiducia nei propri mezzi e consapevolezza, questo sì. Grazie Massimo. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie Massimo Paganin. C'è Paolo da Bergamo che trova in Mertens un'analogia con il ruolo ricoperto da Messi nel primo Barcellona di Guardiola. C'è Sarri ai microfoni di Premium Sport. Sarri. Gris è un giocatore straordinario, penso anche però che in questo momento la squadra esprime così tanto che lo sta facilitando molto. Abbiamo fatto una partita dal punto di vista della qualità inappuntabile, dal punto di vista della mentalità dobbiamo crescere, perché questa era una partita in cui l'arbitro doveva andare alla panchina a chiedere se volevano il recupero, perché doveva essere strachiusa, e noi per un paio di disattenzioni l'abbiamo tenuta in vita, quindi dal punto di vista della mentalità bisogna crescere. era proprio la domanda che ci ponevamo, insomma, se quei gol subiti, insomma, fossero quasi moralmente più pesanti di quelli realizzati, insomma, mi pare di sì. Abbiamo preso gol per 3 stupidaggini, ci siamo rinviati il pallone addosso nella prima azione, nella seconda azione probabilmente c'era fallo anche sul Reina, però erano 3 giocatori avversari e nessuno dei nostri alla ribattuta. Il terzo, se va con il corpo, Carlo Iollo può mettere tranquillamente fuori dal campo senza che ci sia possibilità di prendere rigore contro. Quindi abbiamo commesso delle leggerezze che non dobbiamo assolutamente commettere. Questo per quanto riguarda la gestione della partita, poi per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dal punto di vista qualitativo, è una partita di altissimo livello. Questo Sarri che, insomma, ha qualcosa a dire ai suoi, ma ha ragione, perché secondo tempo comunque il Napoli ha un po' scherzato col fuoco. Prima di fermarci, Vincenzo da Termoli. Vincenzo. Sì. Eccoci. Vincenzo? No, allora cerchiamo di recuperarlo, ci fermiamo, un minuto di pausa, torniamo subito. Tutti convocati. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... convocati. Mentre l'Arsenal continua a essere 1-0 sul Manchester City, 32 minuti, gol di Theo Walcott. A proposito, oggi ha fatto doppietta anche Balotelli, che è tornato al gol che mancava da parecchio. Nizza sempre primo in classifica, ha battuto 2-1 il Digione con 2 gol di Balotelli, 1 su calcio di rigore. Allora, carissimo Pierluigi Pardo, ciao. Eccoci qua, a volte mi faccio vivo anche di domenica, di ritorno da Reggio Emilia. Mi stai stracciando, diciamo, sto subito. Stracciando. Però 7-5, 7-8, tu stai facendo schedina, un capolavoro, sì. Io una prestazione media. Sì, mi sta mancando Pescara Bologna. Potremmo anche arrivare 9-7 stasera, sì, vittorie, sì, sì, di Genoa e Lazio contro e Palermo e Fiorentina. Potremmo chiudere 9-7. Vediamo se Vincenzo da Termoli è tornato tra di noi. Vincenzo. Buonasera. Eccoci, dai. Niente, volevo fare i complimenti a Sarri, mister Sarri, e volevo dire una cosa. Io ho un ristorante, no, 2 anni fa venne a mangiare Giovanni Galli, sì, parlavamo un po', sì, e lui, io gli chiesi, scusi Giovanni, ma come lo vedi a Sarri, visto che se n'è andato appena Benitez? E lui mi disse queste parole, che chi se ne dimentica più. Disse, guarda Vincenzo, se lo fa, io ho lavorato con Sacchi, e ti dico una cosa, questo qua te lo lasciano lavorare, è più bravo pure di Sacchi. L'unica cosa, gli devono dare tempo, e diciamo che il tempo adesso il Napoli era dato e sta dando i suoi frutti. Dai, facciamola questa cosa, datemi tutti il vostro podio degli allenatori italiani, e per allenatori italiani intendo quelli che oggi allenano in Serie A. Guarda, io ci metto Sarri in testa, guarda, e faccio anche mea culpa. No, io ci metto Allegri, perché io l'ho quelli che allenano in Italia, ci metto Allegri in testa, perché credo che Allegri abbia... Perché credo siano due sport diversi, e comunque vincere, anche se Allegri certamente ha la squadra migliore, non ci sono dubbi. Sentivo prima, mentre venivo in macchina, Massimo Caputi, sono d'accordo con lui. Cioè, da un certo punto di vista era anormale se ci fosse ancora il campionato. La Juve ha comprato il miglior attaccante del Napoli, uno dei migliori giocatori della Roma, quindi due dei migliori giocatori delle due principali rivali, quindi figuriamoci. Però poi bisogna saperli assemblare, bisogna dargli un gioco. Insomma, da questo punto di vista, secondo me, io mi prendo Allegri ancora. Però Sarri, beh, Sarri ha dimostrato delle cose, sta facendo un capolavoro. Cioè, tu perdi l'uomo, guarda, che secondo... ti faceva un gol a partita, e tra l'altro lo perdi con tutti gli strascichi di quest'estate che abbiamo conosciuto. Penso il Napoli che ha un punto in meno dell'anno scorso. Sì, sì, ma è sicuramente un punto in meno dell'anno scorso. Ma Napoli, tu quest'estate avresti pensato possibile? Beh, io quest'estate, dopo tanto, 17 giornate, un punto in meno dell'anno scorso. Io quest'estate, quando ho fatto la griglia, ho detto prima Juve, secondo Napoli, terza Roma. No, ma che quindi... fosse la seconda forza, ma diciamo sui numeri proprio, quelli che, insomma, sono anche legati alla presenza o all'assenza di un grande attaccante. Poi, insomma, facciamo finta di dimenticare che l'attaccante del Napoli c'è, ma è assente. Certo, da, no, no, da ma da che il Napoli avrebbe, l'ho detto 2-3 settimane fa, lo ribadisco oggi, non è che cambia la sostanza. Il Napoli con Milik, o comunque con un sostituto di Milik all'altezza, oggi avrebbe 4-5 punti in più, ma serenamente, sarebbe un passo dalla Juve. Io non ho grandi dubbi su questo. La squadra è molto forte, il gioco c'è sempre stato. C'è stata una fase, secondo me, di difficoltà dal punto di vista fisico e dal punto di vista del gioco. famoso Napoli Dinamo Kiev, la partita, la partita con la Lazio. Secondo me qualche punto lo si è buttato via. Sarri in campo è un allenatore straordinario, secondo me ancora può migliorare nella gestione degli uomini e ancora può migliorare in alcuni aspetti strettamente mediatici che oggi fanno parte della vita del mestiere degli allenatori, ma la qualità di questo signore è indiscutibile. Secondo me a Madrid sono contenti che la sfida di Coppa non è questa settimana. Assolutamente, ma questo guarda, lo dicevo qualche giorno fa, qualcosa. Lo ribadisco oggi. Oggi sarebbe in gara il Napoli per eliminare il Real. Oggi Real Madrid-Napoli è 60-40 perché poi il Real forse ha più abitudine a queste partite, ma oggi Real Napoli è una sfida equilibrata. Facciamo un passo indietro, dai, a ieri sera. Rischia ancora De Rossi un intervento che però Higuain salta, Higuain ancora in area di rigore, sinistro! E il Pipita Higuain! Golasso di Higuain! Hanno detto che stava in crisi, che non faceva gol, che questo, che l'altro. Ho stato sempre tranquillo perché io so che l'importante anche è aiutare la squadra, ovviamente. Il gol è quello che al calciatore lo rende felice, ma sempre è stato in un momento tranquillo e sapeva che prima o poi arrivava. Juve in fuga sto giro. In fuga, intanto abbiamo fatto un'altra vittoria, siamo a 42 punti, mancano ancora due partite alla fine del girone d'andata. Vincere oggi era importante, uscire con una vittoria o con un risultato positivo, con una vittoria maggiormente più importante che il pari. Mettiamo la Roma a 7 punti, però il campionato è ancora buono. Malissimo, nonostante il forse in finale ne esce malissimo, perché poi noi bisognava fare il risultato, è chiaro che ora è tutto molto più difficile, però sono stati bravi, sono stati più bravi di noi, sono stati più forti di noi nelle situazioni individuali, hanno fatto vedere di avere più forza di noi in questi duelli individuali. Bisognerà essere bravissimi per cercare poi di recuperare questo terreno qui. Allora, torniamo a ieri sera, lo facciamo con Vittorio Reggio e Paolo Liguori, così insomma apriamo questa pagina dedicata a Juventus Roma. Ciao direttori, ciao. Direttori, buongiorno. Tutti e due. Buongiorno. Qualcuno mi aiuta a dire che il campionato non è finito? C'è qualcuno che se la sente di sbilanciarsi? Io lo dico, ho visto il Napoli oggi, il Napoli con questo Napoli qui il campionato non è finito. Ma è più forte anche della Roma, sì. Il Napoli è più forte anche della Juve, della Roma sicuro, ma anche della Juve. Non, io posso dire non sono d'accordo, nel senso che... Perché me ne frega? Ciao Paoli, scusa, hai ragione. Io l'ho visto oggi. Ma no, meraviglioso. Il calcio lo vedo almeno da 53-54 anni. Ma anche Pardo, da 50. No. Ma Pardo manco da 10 lo vede, comunque lascia stare queste cose. Che io lo vedo almeno da più di 50 anni e ho visto... Una squadra che ha quel gioco che mi piace, più forte di tutti, sembrano quelle squadre che metteva in piedi quando gli andava bene Zeman. Certo, no, io dico una cosa, premesso che ho visto soltanto gli highlights adesso, perché sono tornato in macchina da Reggio Emilia, quindi da questo punto di vista hai sicuramente più le idee chiare tu. No, io dico soltanto una cosa, che tante volte noi, ed è il discorso che spesso viene fatto nei confronti della Juve, facciamo confusione fra la spettacolarità di una squadra e l'efficacia di una squadra. Ad esempio il Napoli oggi, secondo me, ha giocato una partita meravigliosa dalle immagini che ho visto, e magari sarà talmente bella che stanotte me la guardo e faccio nottata. Non è la prima volta che il Napoli fa queste partite qui, però poi ci sono altre partite in cui non hai la stessa condizione fisica, in cui devi trovare l'episodio, e se vogliamo anche nella partita di oggi il Napoli un po' se l'è complicata, non ha mai rischiato di rimettere in partita il Torino, però comunque ha concesso 3 gol. Secondo me la Juve non la Juve una partita così non concede 3 gol. Poi probabilmente la Juve non ha i picchi di spettacolarità che ha il Napoli, ma non ha nemmeno i picchi di spettacolarità che ha la Roma nelle migliori occasioni. Però nel campionato, che è una ripetizione di 38 partite tra virgolette tutte uguali, ma alla fine vince la Juve. Solo questo. Poi che il Napoli oggi sia stato meraviglioso non c'è dubbio, una gioia per gli occhi. Fammi chiedere a Vittorio Reggia se riputa più il Napoli o più la Roma l'anti-Juve. Ammesso che si possa parlare ancora di anti-Juve, perché tanto poi tutte le volte che si nomina un anti-Juve arriva il momento in cui svanisce. Guarda, io sono d'accordo che il campionato non sia assolutamente finito, anche se la Juventus ha un enorme vantaggio, Credo però oggettivamente tutto sommato che abbia qualche chance in più la Roma del Napoli di poter dar fastidio alla Juventus. Sposo in pieno quello che ha detto il mitico Pardo, cioè Roma e Napoli sono squadre che sono in grado magari di regalare più spettacolo e più divertimento in certe partite, ma probabilmente a tutte e due manca ancora la capacità, il cinismo di vincere le brutte partite, quelle che la Juventus ne ha vinte ultimamente 5 o 6, giocando male, vincendo per 1-0, insomma soffrendo come non avrebbe dovuto soffrire, però alla fine ha vinto. Probabilmente le altre due non hanno ancora questa capacità. Io trovo ingeneroso il messaggio, ne sono arrivati due o tre, insomma sintetizzo: Allegri vince perché ha i giocatori più forti, ma la Juve non ha un gioco. Ora è vero che, fatto due calcoli, Higuain vale 10 punti, Higuain ha deciso 5 partite, vale 10 punti, insomma, e questo spiega anche perché è stato pagato 90 milioni di euro, anche se di gol non ne farà 36 come l'anno scorso. Io trovo sta facendo quelli decisivi, ecco, ragazzi, esatto. Higuain quest'anno sta Napoli, facendo Roma, Fiorentina, è una gestione completamente diversa dall'anno scorso. L'anno scorso giocava tutte le partite, tutti i minuti e batteva tutti i record. Quest'anno Allegri lo sta centellinando, gli ha fatto anche fare delle panchine abbastanza brutali, come quella, penso, a San Siro contro l'Inter. Però poi, se tu vai a vedere le partite più importanti del campionato della Juve, prima giornata contro la Fiorentina, partita complicata, c'è il gol di Higuain, la doppietta col Sassuolo, il gol col Napoli, il gol con la Roma, cioè col Toro, nelle sfide decisive, la doppietta col Toro, nelle partite più complicate della stagione, Higuain ha segnato. Quindi questi 10 gol valgono 17-18 se gli fai una tara, no? Sono 10 punti, rispetto... è un quarto del fatturato di punti della Juventus, che insomma che non è assolutamente poco. E mi piace sapere invece che voto date alla Roma di ieri sera, e buono, anche a Spalletti. Chiedevamo prima a Massimo Caputi, io credo non sufficiente. Aspettate, possiamo 30 secondi sentire Mihajlovic, vale, dopo la che battosta può regalare gioia del Premium Paolo, Sport, sempre ecco su Premium Sport, insomma non soddisfattissimo per quello che ha visto dal suo Toro. Sentiamo Mihajlovic. Però anche vista la rinuncia a Iago Falche di partenza, ecco, che cosa le lascia questa considerazione? Allora vi spiego tutto, no? Se ci avete un po' di tempo, certo. Se no, faccio. Allora, come prima faccio complimenti a Napoli perché ha pienamente meritato la vittoria. Loro sono fortissimi, poi se gli regali occasioni e spazi poi ti fanno pezzi. Noi abbiamo preso 3 gol in 9 minuti, dove abbiamo dormito e sbagliato sugli episodi, e partita è finita là. Mi dispiace perché i primi 2 gol abbiamo preso sulle cose che sapevamo quello che avrebbero fatto sui calci d'angolo e sulle loro accelerazioni e tutto, invece non siamo stati attenti. Secondo tempo abbiamo cercato di rimediare e tenere partita viva, ma rispetto delle altre volte, altre partite, questa sconfitta è stata meritata. E dico che a volte bisogna rompersi per capire di che materiale si è fatto, che poi dopo ti offre la possibilità di ricostruirti ancora più forte di prima. Noi adesso dobbiamo pensare a Genova cercando di vincerla, che non sarà facile, e poi vediamo quello che si fa. Questo Mihajlovic che insomma l'ha presa credo abbastanza bene. Beh, prego Paolo, stavamo facendo la pagella di Spalletti della Roma di ieri sera. Dici a me? Sì. La Roma di ieri sera è insufficiente, la Roma nel complesso è insufficiente, mi sembrava una squadra molto incerottata, molto, molto bloccata, ma poi c'è un particolare, è insufficiente perché è insufficiente l'allenatore, perché se tu già vai a Torino a giocare una partita e sbagli la formazione al primo tempo, allora te la cerchi. Stai parlando di Gerson, che poi è il nodo del contendere. Che ve ne parlo a fare? Ti ripeto, io vedo da oltre 50 anni il calcio, non è che si può fare sempre l'ovvio. A me piace proprio davvero il calcio. Io non sono un tifoso dell'ovvio, del banale, che insomma, però una squadra è forte, l'altra è più forte, però vince le partite con cinismo, quelle difficili. Ci sono le partite difficili, ci sono le partite facili. Il problema è questo, che se sbagli la formazione contro la Juventus al primo tempo e poi ti correggi in corsa, hai già sbandato la squadra. Ti si è fuso in mezzo al campo De Rossi, non hai tanto organico in questo momento, perché Florenzi è fuori, altri sono fuori, Paredes è fuori, quindi quando perdi quello ti si sbanda la squadra, arranchi e fai l'arrembaggio finale generoso, coraggioso, dove fai vedere che insomma c'hai cuore, c'hai animo, c'hai Nainggolan, per dirla tutta soltanto, e fai quello, però è insufficiente perché non si può sbagliare quella roba lì. Sì, ogni tanto Spalletti qualche numero lo fa, rischiando. Eh? Ogni tanto Spalletti qualche numero lo fa. Ti vai a giocare la partita più importante in questo momento. Te la giochi già in condizioni precarie su tutta la fascia destra, c'hai un'infermeria, Florenzi Salah Perez, quindi stai messo male, e c'hai in panchina chiunque, e comunque se sei in forma, Sharawi, l'hai bocciato, pazienza, però è in forma, però è uno attivo così, e metti Gerson che è un mediano interno anche lento e lo metti sulla fascia perché dici così mi contiene il terzino Alessandro, prova a mettere sul fisico. Io lo trovo assolutamente... No, ma è stato un errore, su questo non ci sono dubbi. Mi è piaciuto sinceramente l'atteggiamento della Roma, soprattutto nella ripresa, il pressing alto. Io ho visto una squadra vera, non capita spesso di vedere la Juve in certi momenti soffrire così tanto, anche se poi alla fine se guardiamo le palle gol praticamente non ci sono state. Però insomma, sicuramente io non credo che la Roma esca particolarmente indebolita da questa partita, se non per il risultato, perché ovvio che quando c'è uno scontro diretto così poi il risultato non è un dettaglio, questi tre punti valgono 6. Soprattutto se partevi sotto. Abbiamo ancora una battuta da fare con Vittorio Reggio e Paolo Liguori, c'è il traffico, torniamo subito. Tutti convocati. I love this game. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presento. Tutti convocati. Allora, c'è chi scrive che in campionato Higuaín non serviva alla Juventus, che era già più forte, serve per le partite di Coppa, ed è lì che deve fare la differenza, ed è lì che deve essere giudicato. Io... Sì, ma non è che siccome la Juve ha vinto gli ultimi 5 campionati non vale niente, no. Cioè, voglio dire, è comunque una cosa importante questa, no? Direttore Oreggia. Il gol di ieri. Sì. Il gol di ieri è un capolavoro, è uno dei gol più belli degli ultimi tempi, certo non... dei primi 10 perché ho visto della roba dalla Spagna o dalla Gran Bretagna, però insomma uno dei più belli che ho visto in Italia. Il gol di ieri, per dinamismo, per capacità di spostare i pesi, passarsi la palla dal destro al sinistro e tirare in quella maniera, che quel gol lì ha un valore in sé, non c'entra niente la Juve, non c'entra niente, c'entra anche relativamente, se vogliamo, la difesa della Roma, c'entra un po' perché un torto ce l'ha certamente Manolasco e De Rossi, non l'aveva fermato, ma insomma quando si dice non l'ha buttato giù già si sta dicendo una cosa al limite, certo. Perché deve buttare giù, sì. Quello ha spostato il peso e ha fatto un gol meraviglioso. Sì, è uno degli esempi. Quello è un gran gol, quello lo fa Suarez e noi ci chiudiamo gli occhi, e l'ha fatto Higuaín e equivale a quelli che fa Suarez. Oreggia, cosa si risponde a chi scrive e stanno scrivendo fare l'allenatore della Juve non è complicato, Allegri è quello che ha perso un campionato con Ibra, Allegri vince solo perché ha 20 titolari? Io credo che se uno deve fare l'allenatore sia meglio fare l'allenatore della Juventus che non del Pescara, lo dico così, proprio in leggerezza. Credo che Allegri abbia i suoi meriti, anche se Allegri, come Spalletti, certe volte le formazioni le ha sbagliate, attenzione, credo che tutti sbaglino in questo momento, però penso che Allegri che ha fatto, mi pare, 100 punti in un anno, sì. Insomma, che ha infilato 25 vittorie di fila in casa, qualche merito ce l'abbia, sicuramente ha degli ottimi giocatori, a cominciare Higuaín che segna dei gol fantastici, però insomma qualche merito ce l'ha anche lui. Prego. Dimmi. No, dico, io credo che Allegri, insomma, quando è arrivato al posto di Conte sembrava che fosse una scommessa persa, invece io penso che sia una scommessa che lui ha vinto con se stesso e con quelli che probabilmente storcevano il naso quando hanno sentito il suo nome per la panchina della Juventus. Sì, l'unica cosa che non ha vinto è lo scetticismo. Cioè, inutile dire, chissà perché viene fuori. Se n'è fatto ampiamente una ragione, sì. Secondo me. Non, Allegri ha una forza tranquilla da questo punto di vista, non ha bisogno, secondo me, di chissà quale consenso, di chissà quale gratificazione da questo punto di vista. È un allenatore, è ancelottiano come tipo di leadership. È uno che poi però le cose le fa funzionare e che secondo me ha anche un'idea di gioco alta, che non vuol dire che la squadra giochi sempre bene, perché sicuramente dal punto di vista dello spettacolo la Juve non è il massimo che si vede in Italia, Roma e Napoli, quando giocano bene, giocano partite probabilmente più divertenti, più spettacolari della Juve. Però la Juve trova sempre la soluzione e questo fa la differenza. Va bene, ringrazio Vittorio Reggio e Paolo Liguori. Ciao, alla prossima. Ciao. C'è Omar da Milano, c'è chi ci chiede di sottolineare la prestazione di Rugani ieri. Periodo che Rugani comincia a essere sufficientemente lungo in cui sta giocando veramente molto bene. E anche qui, vedi, penso a quel rodaggio che aveva fatto storcere il naso a parecchi all'inizio della scorsa stagione. Ci aveva messo una vita a Rugani prima di entrare nei meccanismi, era arrivato con tante attenzioni, con tanta aspettativa, e Allegri lo ha centellinato in maniera quasi snervante all'inizio. Entrò nei minuti finali di Juve-Siviglia, però poi alla fine sta mezza stagione non ha giocato, però alla fine sta avendo ragione lui, capisci? E quindi poi a me sembra che tanti, ecco, di Allegri mi succede questo: io non sempre capisco tutto quello che fa, però mi sembra che alla fine poi torni tutto. Cioè, alla fine quell'Higuain che se n'è stato in panchina in qualche minuto e che ha fatto le rotazioni, poi magari ti arriva fresco e motivato alle partite importanti e così via. Omar, buonasera. Eccoci. Grazie per avermi convocato. Io Dai. Sono un tifoso juventino, non sono una vedova di Conte, come voi dite spesso in trasmissione. Ma ce ne sono, ma sentirne c'è sempre più da ridere. Io vorrei fare solo due considerazioni. Allora, io oggi ho visto il Napoli-Torino. Napoli ha giocato bene, ok, sono d'accordo, però il Torino è 5 domeniche, scusatemi se, che fa ridere. Cioè, gioca male, con la Juventus ha perso una partita che non doveva perdere. La domenica prima col Chievo mi sembra che abbia fatto una roba con la ha perso 3 partite consecutive. Sì, più Samp e Chievo non mi sembra che abbia dominato. No, e poi però, Napoli ha giocato... Perdonami, 10 minuti alla fine del derby ha provato anche a vincersela. Sono d'accordo. Però mi sembra che sia una fase un po' discendente. Posso sbagliarmi? Posso non sbagliarmi? Vedremo la prossima col Genoa. Il Cagliari mi sembra che sia in fase decisamente calante. Sì. Sbaglio? Sì, no, sì. Quindi io dico, il Napoli Style l'ho visto oggi, sono d'accordo, gioca bene. Sembra il primo Zeman, che era il primo Zeman della Lazio, della Roma. Adesso non mi ricordo bene, giocano bene, si sbattono tutti. Però quando il Napoli trova una squadra chiusa, scusatemi, sì, non tira mai in porta. Però attenzione, perché il discorso, insomma, poi se no c'è chi dice che con la Juve c'è un po' di timore delle altre. Insomma, Napoli sta facendo in quest'ultima fase delle cose straordinarie. Ci dobbiamo fermare, 800 24 00 24. Dopo il GR torniamo con un momento particolare dedicato a una grande vicenda triste, tragica, del nostro calcio e della nostra società. Ne abbiamo parlato questa settimana perché è stata una settimana nostro un po' particolare. Malgrado, e abbiamo anche ovviamente riconosciuto che un aggettivo durante uno sketch una settimana scorsa era assolutamente inappropriato, e quindi siamo morsi le mani mille volte perché volevamo che questa cosa non succedesse. Però vogliamo dire rispetto per Paparelli, e fra poco ne parliamo con il figlio di Vincenzo, con Gabriele Paparelli, con i ragazzi della Curva. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Festeggiare, regalare, illuminare, cantare, gioire, incontrare, ritrovare, brindare, mangiare, abbracciare, baciare. Radio 24, libera la voglia di Natale. Convocati. Buonasera, apriamo questa edizione del TG1 con le altre notizie apprese sul luttuoso incidente accaduto allo Stadio Olimpico di Roma, dove uno spettatore è morto colpito al volto da un razzo sparato da una persona ancora sconosciuta. Secondo le indagini fin qui condotte, la vittima, Vincenzo Paparelli, 33 anni, sposato con 2 figli, è stato colpito al viso da un razzo antigrandine che può essere sparato o da un tubo di lancio, un oggetto ingombrante lungo più di mezzo metro, o da una apposita pistola. Gli investigatori stanno inoltre cercando di chiarire la posizione di una ventina di persone denunciate perché in possesso di armi improprie. 28 ottobre 1979, il giorno in cui Vincenzo Paparelli, aspettando l'inizio di un derby di Roma, perse la vita all'Olimpico. Una settimana fa, esattamente a quest'ora, uno sketch uscito male, anche se senza alcuna intenzione malevola, ha rischiato, ha riaperto una ferita che non è ancora chiusa e forse non potrebbe esserlo, anche se sono passati quasi 40 anni. E quindi oggi insomma ci piace tornare su quell'argomento. Andro Mercuzzi è scusato, lo ha fatto alla Zanzara, che come sapete insomma, è uno dei programmi più importanti di questa radio, si è scusato alla radio, si è scusato personalmente con le persone più colpite, Radio 24 ha fatto il suo comunicato, però insomma noi non volevamo che passasse insomma semplicemente la nottata, no? Non volevamo mettere la testa sotto la sabbia, pensiamo che visto che tutti i giorni questo programma da tanti anni parla di cultura sportiva, da un errore potesse nascere invece qualcosa di positivo, e quindi vogliamo dedicare qualche minuto per ricordare, e lo faremo tutte le volte in cui ci sarà ovviamente la voglia, la possibilità, in termini costruttivi, la figura di Vincenzo Paparelli, la sua e di tutti quelli che sono morti di stadio, che è una delle tragedie più assurde, più incredibili, uno degli ossimori, delle cose più assurde che esistano, non andare a seguire una partita e non tornare a casa. Abbiamo una serie di ospiti, il primo è Guido De Angelis, che insomma è pronto per andare all'Olimpico stasera, immagino con tanto entusiasmo. Quel giorno, che giorno è stato? Ce lo racconti, Guido? Intanto buonasera a tutti, buonasera a te. A tutti voi, no, fu un giorno molto particolare perché nessuno mai si immaginava di tornare a casa con questo fardello, perché fu quasi inaspettata la cosa. Mi ricordo, diciamo, ero presente, ma mi ricordo anche vagamente, perché sono passati tantissimi anni, mi ricordo soltanto che non c'era più la voglia di andare allo stadio dopo, quello me lo ricordo benissimo. Senti, la cosa che io mi chiedo è perché, rispetto ad altri casi, no? Altre situazioni, per esempio Gabriele Sandri, ma insomma anche rispetto ad altre tragedie, su Paparelli insomma spesso ci sono delle stonature. È ovvio che il 99,9% di tutti i tifosi del mondo sono ovviamente solidali, però perché? Ti sei fatto un'idea? Ma io penso sempre che nella coscienza degli uomini, non voglio star qui adesso né a difendere né a giustificare qualcuno, io penso che sia una questione di coscienza, perché fu un atto, io credo che fu anche un errore, perché io credo che quel ragazzo non volesse mai colpire una persona, su questo credo che certo. Non ho dubbi. Il problema fu che però voleva magari intimorire con un gesto per far capire che c'era così una sorta di, non so se supremazia o meno, ma io credo che lui non lo volesse mai fare. C'è Gabriele Paparelli che ci ascolta, lo ringraziamo, siamo stati degli stalker questa settimana e gli chiediamo scusa al di là insomma della buona fede, se perché poi che succede, Gabriele? Succede che tu su tanti anni non si riesce a stare in pace, mi hai detto, no? È così? È questa la sensazione? Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Buonasera a te. Ciao Guido. Ciao Gabriele. Sì, purtroppo non riusciamo, c'è sempre un coltello nella piaga che gira, no? Quindi uno non riesce mai a stare, a vivere il dolore in intimità. Certo. Penso che sia la cosa più giusta da dire, sempre, ogni volta ce n'è sempre una, e una volta è un coro goliardico, una volta i ragazzi non lo sanno, una volta una scritta su un muro, un'altra volta un insulto dentro un bar, purtroppo sono cresciuto con gli insulti a mio padre. Purtroppo. Noi ci siamo conosciuti qualche anno fa in un'intervista allo Sciagurato Egidio, che era un programma che andava su Sky. Tu mi avevi raccontato la cosa delle bombolette, e no, che tu c'era un periodo che giravi con le bombolette perché non potevi ovviamente accettare di vedere, no, quella scritta lì. Sì, lo facevo più che altro, facevo il tragitto che faceva mamma per andare al lavoro, per vedere se c'erano scritte, perché nel momento in cui lei vedeva una scritta tornava a casa e si metteva a letto, si chiudeva al buio, e per lei era una tragedia. Poi io lavoravo lontano, quindi avevo sempre la mia bomboletta sotto al sellino, se mi capitava di vedere una scritta mi fermavo e la cancellavo. Questo per chi non coglie che c'è sempre un lato umano, in vicende come queste. Io immagino che questi quasi 40 anni ti abbiano anche fatto conoscere però un lato di solidarietà. Con noi c'è anche Riccardo. C'è Riccardo della Voce della Nord, è una delle voci della Curva Nord della Lazio. Quello che ne abbiamo parlato privatamente, Riccardo, quello che vorremmo riuscire a fare, come detto, insomma, di andare André diceva, dall'etame nascono i fior, da un errore assolutamente, assolutamente gravissimo, ma vi assicuriamo in buona fede, vorremmo che nascesse qualcosa di positivo. Perché è così difficile? Io penso a Gabriele Sandri, che ha ricevuto tanti attestati giustamente di solidarietà da parte delle curve di tutto il mondo. Penso a Stefano e Christian, che sono quei due tifosi della Roma che, tornati a Roma Bayern, purtroppo sono scomparsi e hanno ricevuto l'abbraccio di tutte le tifoserie, anche di quella della Lazio. Perché è così difficile? Ed è così difficile? E che cosa fate voi ogni 28 ottobre? Innanzitutto buonasera a tutti, saluto te Pierluigi, un abbraccio a Gabriele e a tutti gli ascoltatori. Prima di risponderti alla domanda voglio fare una piccola premessa, bella la citazione che hai fatto su De André, l'etame. E diciamo che ci ha disgustato un po' tutto quanto, ci disgusta pure oggi essere qui, insomma, a parlare di questo, ci disgustano le scuse, perché siamo veramente nauseati da tutto ciò. Chiaramente non vogliamo far passare neanche il messaggio che siamo qui a fare protagonisti di vittimismo o di pietà, perché non affatto si tratta di Riccardo, questo. L'idea è stata nostra, parola d'onore, lo diciamo pubblicamente, l'idea è stata nostra, volevamo da una cosa, ecco, vi ringraziamo perché la buona fede tua, e adesso insomma la radio, vediamo che la Radio 24 sta cercando giustamente di fare il minimo, quello, insomma, l'atto dovuto. Però certo, lasciatemi dire, io non posso immaginare che dentro quella radio voi non controllate i testi, non posso immaginare che è stata una cosa insomma così. Questo purtroppo è un dubbio che rimane in me, e ovviamente come rimane in me rimane fra tanti laziali, tanta gente normale. Assolutamente. Non posso pensare questo, che non controllano loro. Nessuno, visto che a noi ci controllano tutto, sai anche cosa. No, ma lo so. E sai benissimo che tante volte anche in questa stessa radio abbiamo sottolineato il fatto che la situazione che si vive a Roma da tutte e due le parti a livello di controlli è veramente una situazione assurda. E l'abbiamo detto tante volte, perché è un dato oggettivo, è un dato di diritto. Poi ovviamente, insomma, in qualsiasi settore dello stadio, in curva e anche in tribuna, chi sbaglia deve pagare, questo è indiscutibile in qualsiasi settore della società, ma che ci siano dei controlli preventivi o delle barriere, insomma, vabbè, l'ho detto mille volte. Comunque, si può pensare di fare qualcosa? È possibile pensare di fare qualcosa? Lo chiedo a tutti, Guido, per cercare di... Pierluigi, dovrebbero farlo quelle persone che ogni tanto fanno quello che diceva Gabriele prima, dovrebbero avere un po' di coscienza, dovrebbero essere un pochino più... a ragionare di più, ma vedo che però no, la cosa non funziona, perché sono anni che c'è questo problema e ripeto, c'è anche quasi non, tante volte qualcuno fa, c'è anche indifferenza su questo argomento, perché tanto alla fine sono passati tanti anni, invece purtroppo il problema ricorre sempre, ci sono anche delle persone che lo fanno quasi sempre, insomma, ecco, ricorrere a ricordare in quel modo Vincenzo, che per me, insomma, certo, una tragedia è stata incredibile. Ecco perché dico che dipende dagli uomini di buona volontà, che però non hanno volontà. Ed è un tipo di pensiero che penso possiamo estendere ai morti di Superga, ai morti dell'Aisel, a tutti quelli che sono morti per il calcio. Gabriele, posso chiederti com'è il tuo rapporto con la lazialità? Tu rimani un grande tifoso della Lazio, no? Continua a essere una grande compagna di viaggio della tua vita questa. Assolutamente sì, il mio rapporto è d'amore sviscerale, perché poi ecco, io in questi giorni ho ricevuto veramente migliaia e migliaia di attestati di solidarietà da un popolo che sono 37 anni che ha deciso di mettermi proprio sotto la sua ala e proteggermi. Questo qui mi dà una forza incredibile, io grazie alla Curva Nord, perché diciamocelo, grazie anche a loro che sono intervenuti molto spesso anche in questo caso, che hanno difeso il nome di Vincenzo, ma in mille circostanze, dalla scritta ai cori, hanno sempre cercato di arrivare a un compromesso e cercato di evitare queste cose, e questo gliene va dato atto. Io per la Lazio darei tutto, veramente, guarda, veramente. Nelle curve di tutta Italia, come in tutti i settori del mondo, ovviamente si annidano anche cose molto buone. So che per esempio su Amatrice sono state fatte cose molto grandi e cose molto importanti, evidentemente quel tipo di aggregazione, e si stanno facendo, no Riccardo? Assolutamente sì, Assolutamente sì, ma il problema infatti è che si tende a generalizzare, a voler criminalizzare una cosa che invece è passione pura e libertà e amore e quindi anche aggregazione, quindi bisognerebbe rivedere tantissime cose, perché oggi purtroppo si tende soltanto a criminalizzare, questo perché fa comodo a molti, no? Gettare fumo negli occhi, parlare di problemi fantomatici. Comunque vabbè, non è questo. No, ma è chiaramente successo. È chiaramente un tema. Sentite, io spero. Noi siamo qua, ci siamo da una vita e non è che adesso non ci siamo. Quindi qualsiasi iniziativa che potrà essere fatta, non soltanto il nome di Vincenzo, ma insomma per ricordare figure come la sua e ovviamente per sottolineare le eventuali iniziative positive, secondo me trova assolutamente spazio e trova assolutamente ospitalità. Sì, trova spazio, trova la voglia di raccontare, trova una sponda per cercare anche di spiegare quelle che poi sono le cose positive che possono nascere anche da tragedie come quella che in qualche modo oggi abbiamo provato a raccontare. Sentite, ma Lazio-Fiorentina stasera chi è che si sbilancia? Chi è dei tre che si sbilancia? Vince la curva nord. Vince la curva nord. Guido. No, ma se la Lazio fa la Lazio stasera si può portare a casa il risultato. Gabriele, un abbraccio a tutti voi. Se posso dire due parole. Assolutamente. Innanzitutto volevo ringraziarvi per questo gesto che avete fatto. Poi volevo augurarvi a tutti quanti un sereno Natale e un buon 2017 e questo augurio lo mando anche a Mercù, perché so che sta vivendo insomma momenti pure difficili e bisogna imparare dagli errori e nessuno è perfetto, quindi vi auguro un buon Natale veramente di cuore a tutti quanti. Che vi devo dire? Buon Natale. Grazie. E buona partita. Buon Natale a tutti, buona partita. E siamo qui, questo è il concetto che vorrei sottolineare la terza volta. Siamo qui, tutte le volte che viene offeso il nome di Superchi, il nome della Isel, il nome di Paparelli, il nome di De Falchi, il nome di chiunque, siamo qui perché credo che quando succede una tragedia come quella, è il padre di Gabriele, ma è il padre di un tifoso della Lazio, ma potrebbe essere il padre di un tifoso della Roma, del Milan, di qualsiasi altra squadra. Luigi. Dimmi. Permettimi l'ultima cosa, tanto un pensiero visto rima, battute, Mercù, ma chi volevi più a Percù, lo diciamo anche noi questo. L'ultima cosa seria, invece vogliamo far passare il messaggio che offendere i morti è un atto infame, questa cosa va detta da tutti quanti, a prescindere dalla fede calcistica, dalla fede politica, religiosa, sesso e cose varie, è una cultura che dobbiamo infondere nelle scuole calcio, dentro le curve, soprattutto anche nelle tribune. Giustissimo. Soprattutto anche nelle tribune e anche dentro le redazioni dei giornali, che state lì con quei capelli scapigliati, quegli occhiali, anche da quelle parti. Assolutamente. Ci si prova, dai. Ma assolutamente, ragazzi, ma quando uno sbaglia nella vita sbaglia, su questo non ci sono dubbi. Mi permetto semplicemente di ricordare, però, insomma, che come sottolinea Gabriele, si può sbagliare e la malafede lo conosco, insomma, proprio non gliene può fregare di meno del calcio, ma l'errore rimane grave e noi siamo qui tutte le volte in cui ci sarà bisogno. Io vi ringrazio di cuore perché penso che questa sia stata una cosa bella. Vi voglio bene a tutti. C'è il traffico adesso. C'è il traffico, che è una cosa un po' banale. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Era troppo tempo che cominciavamo in trasferta e questo comunque si sentiva, cominciava a essere un peso, quindi volevamo dare continuità. Era la prima volta che avevamo l'occasione di vincere la terza partita consecutiva, perché comunque abbiamo vinto anche con lo Sparta Praga, seconda volta che non subiamo gol. Io ho visto tante cose positive sicuramente, perché siamo stati dentro la partita, l'abbiamo fatto con volontà, con attenzione, possiamo crescere, ma credo che questi risultati positivi ci daranno ancora più convinzione, ancora più forza, quindi la nostra crescita credo che sarà costante. Questo Pioli, per tornare alla strettissima attualità, questo Pioli oggi dopo la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo, Pioli che sta rimettendo in piedi l'Inter, c'è poco da fare, normalizzatore, 10 punti in 5 partite, zona Europa un po' più vicina, insomma l'Inter resta imperfetta, però almeno sì, evita di buttarsi via. Il Sassuolo in via. Questo momento ha tanti problemi e questo non si può sottacere, però... Però sicuramente c'è una squadra, c'è un ordine, c'è una disciplina. A me oggi non c'è, è un Candreva che è rifiorito. Io ho rivisto il Candreva veramente a proposito di Lazio, della stagione, quella del terzo posto. Insomma, è un giocatore assolutamente ritrovato. Ed è una squadra che ha delle, nella quale almeno l'allenatore ha cercato delle soluzioni alternative e le sta trovando, perché la difesa 3 funziona, perché comunque, per dirti, i due esterni di difesa, no, che sono un po' il punto debole dell'Inter dal punto di vista della rosa, oggi c'erano Ansaldi e D'Ambrosio, stanno cominciando a ingranare. Poi succedono delle cose molto da Inter, perché ecco, comunque finire la partita in 10 per l'espulsione di Felipe Melo è un'altra, che vuol dire, tra l'altro, perdere Felipe Melo e Joao Mario, esatto, anche, in vista del match contro la Lazio, che non è affatto facile, anche perché insomma a questo punto diventa quasi uno spareggio. Insomma, intanto saluto Francesco Guidolin. Mister, buonasera. Buonasera a tutti voi. Come va? Bene, molto bene, grazie. Quanti molto chilometri bene in bicicletta oggi? No, fa freddo, no, fa troppo freddo. Ecco, no, questo mi incoraggia, perché veramente io tutte le volte che penso a questi uomini meravigliosi che vanno in bicicletta, e Guidolin è fra questi, penso sempre alla fatica, e quindi sapere che Guidolin causa freddo oggi non è andato in bici. No, si può fare a piedi, però la fatica. Ma che hai fatto a piedi, dai? No. Oppure si può andare a trovare il caldo per andare in bici, se si può. Sì. Vabbè. Oppure no. Oppure si sta fermi. Senti, mister, ti posso chiedere una cosa? Noi siamo usciti adesso da uno speciale nel quale abbiamo ricordato la figura di Paparelli. Tu hai vissuto l'esperienza del calcio inglese. Ti volevo chiedere, sì, se quanto dobbiamo crescere ancora a livello di mentalità e di cultura in Italia, nel rispetto ovviamente delle vittime, nella domanda che non c'entra niente. Poi parliamo di campo. Beh, in Inghilterra c'è molta cura per tutto ciò. Cioè, loro ricordano e non dimenticano, non sono solo come dire cerimonie, loro non dimenticano i loro morti, le loro tragedie, ed è un popolo educato, quindi penso sia, dobbiamo ancora fare della strada. Noi, ti manca quell'esperienza, dal punto di vista? Ma io spero di poterci ritornare. È finita troppo in fretta. Come? È finita troppo in fretta. Sì, è finita in fretta, ma è stata una bella esperienza, perché la parte più importante, la parte più corposa è stata quella della scorsa stagione, che è andata benissimo. Quest'anno eravamo partiti male, ma avevamo giocato delle buone partite, avevamo un brutto calendario, finito il mercato in ritardo, insomma poi è cambiata la proprietà nel frattempo, quindi è un esonero un po' anomalo per il calcio inglese. Tra l'altro i tifosi, a proposito di tifosi che sono, senza i quali il calcio non esiste, erano dalla tua parte, questo lo diciamo. Lo sono ancora. Certo, arrivano messaggi, sì. Hanno contestato pesantemente no, la decisione. Sì, quindi vabbè, ma cose che succedono nel mondo del calcio, succedono raramente in Inghilterra, perché ho visto appunto anche i miei colleghi come Hughes dello Stoke City, Bilic del West Ham, che avevano più la mia classifica, forse anche peggio, e avevano fatto degli investimenti importanti in sede di mercato. Le società e i club hanno avuto la pazienza che è tipica del calcio inglese, anche se sta cambiando un pochino anche lì, e adesso hanno ritrovato il loro cammino, lottando, dovendo lottare per i loro obiettivi, e faticando, ma si sono rimessi in carreggiata, quindi questo credo sarebbe successo anche con me. Intanto Manchester City avanti 2-1, gol di Sterling, dunque rimonta completata da Guardiola contro Wenger. In questo momento Manchester City secondo a 7 punti da Conte. Io non so se è una sorpresa, Guidolin, il fatto che Conte si stia prendendo così in fretta la Premier, l'Inghilterra. Guarda, stavo pensando mentre mi guardavo appunto Manchester City-Arsenal, che una bella partita, sfida ad alta classifica, grandi giocatori e grandi allenatori. Le 4-5 squadre più forti in Inghilterra, e quindi queste due che stanno giocando adesso, più il Chelsea, più il Liverpool, più il Tottenham, hanno più o meno l'organico dello stesso livello. Togli di qua, metti di là. Secondo me, dal punto di vista dell'organico, nessuna di queste è più forte delle altre. Ma chi fa la differenza è proprio l'allenatore in questo momento. Ed è Conte che fa la differenza, perché Conte ha capito che doveva essere più pratico, che il calcio del Chelsea deve essere più pratico, perché è partito con delle difficoltà in difesa, prendendo spesso gol, ha cambiato sistema, ha svoltato decisamente passando alla difesa a tre, e con i giocatori che ha, con la capacità che ha lui di tirar fuori il meglio da ognuno di essi, e sta venendo fuori un Chelsea formato Juve, solido, bello talvolta, non bellissimo per il momento, ma comunque molto ma molto pratico. Sì, che la differenza in questo momento nel calcio inglese, in Premier League, per le squadre più forti la sta facendo il nostro allenatore Conte. Sì, ha vinto credo le ultime 3 per 1-0, senza dominare, senza fare un possesso palla, perché adesso è di moda, no? Da un pezzo che è di moda il possesso palla, delle volte sterile eccetera, no. Molto compatto, molto solido, molto determinato. La squadra sta prendendo forma, e la forma che sta prendendo è sul carattere dell'allenatore. Complimenti a lui. Ma mi dici da collega, me la spieghi meglio questa cosa del carattere dell'allenatore? Perché cioè, c'è una cosa che gli invidi, tu stai facendo, hai fatto una grandissima carriera fatta di grandi risultati, di grandissima regolarità di risultati. C'è una cosa di Conte che dici, mi piacerebbe avercela a me questa caratteristica? No, non per presunzione, perché per certi aspetti quando lo vedo in panchina io mi rivedo in lui 20 anni fa, 15 anni fa, 10 anni fa, 7, 8 anni fa, e cioè quella carica, quel temperamento. Magari dimostrato in panchina in maniera diversa, ma nel chiuso dello spogliatoio magari allo stesso modo. Quindi rivedo cioè, le cose che secondo me deve avere, gli atteggiamenti anche, i comportamenti, magari voglio dire differenti anche, perché il carattere non è uguale nelle persone, è diverso ognuno dall'altro, no? Però che ci devono essere in un allenatore, che deve farsi seguire, certo. Per farsi seguire a volte bisogna battere i pugni sul tavolo, e lui è così, e gli allenatori che vincono, che fanno carriera, sono così. Sì, non esistono allenatori morbidi, molli. No, io penso anche Allegri che viene descritto così, no, per chi non lo conosce, come uno morbido che... No, bisogna essere padroni dello spogliatoio, ragazzi. Bisogna quando entri nello spogliatoio si percepisca che nell'aria chi stanno comanda. Aspettando che parli tu, e si capisca chiaramente chi comanda. Poi ognuno lo può fare a proprio modo, e ci sono tanti modi ovviamente, perché non so, ci sono allenatori che sanno magari gestire molto bene i gruppi, altri che passano per attraverso altre vie, altre strade, ma insomma bisogna comandare, bisogna saper comandare. Ma voi pensate banalmente alle persone che vi piacciono, no? Nella vostra vita, ai colleghi di lavoro, le persone che vi stanno simpatiche, le persone che vi comunicano, che associate all'idea di carisma, non è che sono tutte uguali. Alcuni no. Sono semplicemente persone che vi convincono, alle quali volete bene e che vi riescono a portare con loro perché provate un sentimento e una comunione di intenti. Altre sono persone magari che vi mettono, tra virgolette, più paura, più timore, che però sono credibili e quindi ha senso seguirli. E io penso che sia la stessa cosa per quanto riguarda gli allenatori. Ne parlavamo addirittura qualche giorno fa, adesso me la tiro un po' da Floris, a proposito di leader politici, perché è più o meno la stessa cosa, no? Penso, mister. Cioè, ti alla fine... Ho sentito quella sera addirittura, da Floris. Cos'era? Sì, cioè Ancelotti e Mourinho, quanto sono diversi? O sì, Ancelotti sì, e sì. Conte, sono diversi, però sono due grandi, no? Perché comunque certo. Tutti e due certo. Arrivano al risultato. Tu hai mai, certo. Posso chiederti, nella tua carriera sì. c'è stata mai una situazione in cui questa maniglia dello spogliatoio sentivi che la stavi perdendo, che non c'erano le condizioni? No, è mai capitato più volte nel corso della mia carriera che... dovevo cambiare atteggiamento in certi momenti perché c'era da prendere determinate posizioni e capivo che se avessi atteso o se avessi traccheggiato probabilmente avrei potuto fare più danni. Sì, succede, ma succede nell'arco di un'annata, succede a tutti i miei colleghi, voglio dire, perché sì, la cosa fondamentale è capire queste cose, capire quello che dicono i ragazzi, quello che dice il campo, quello perché certo. Le cose magari non funzionano o magari tardano a venire, e correggere la rotta. Quindi bisogna avere questa sensibilità di capirlo prima di fare danni e per cercare di ascoltare, come dire, no? di raddrizzare la barca e e fare bene. Sì, non sempre necessariamente sono cose che poi hanno una visualizzazione esterna, cioè qualcosa che magari si può cogliere da fuori, però ci sono tanti passaggi in una stagione nel rapporto tra un allenatore, dentro uno spogliatoio, i giocatori. Ci dobbiamo fermare, abbiamo la pausa. Io ringrazio davvero Francesco Guidolin per questi minuti che ci ha dedicato. Grazie mister. Grazie a voi, ciao, buona ciao, serata. Mister, ciao, grazie ciao, Francesco Guidolin, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. La prossima partita noi ci arriviamo nella maniera ottimale a livello fisico e a livello mentale soprattutto, contro un avversario invincibile, purtroppo, spiace dirlo ma è così, e dobbiamo attingere tutte le nostre risorse per fare una grande partita, perché ci teniamo a regalare un trofeo, insomma, al presidente Berlusconi, aggiungere un altro trofeo in bacheca. È una partita che sono contento di fare, anche se non l'ho conquistata io sul campo, quindi a chi mi ha preceduto le faccio i ringraziamenti e soprattutto ai ragazzi che l'hanno ottenuto. Ora io devo pensare a venerdì e può fare cercare di passare un bel Natale, perché da venerdì dipende il Natale che passeremo, altrimenti dovremo stare un po' qualche giorno arrabbiati. Poi il primo trofeo, non c'è possibilità di rivincita e soprattutto ci hanno battuto a Milano, quindi bisogna andare laggiù con la testa giusta. Allegri ci tiene a non rovinarsi le vacanze. Te lo ricordi l'anno scorso che aveva detto prima di Natale, c'era, se non sbaglio, Carpi Juve. Ha detto, beh, i ragazzi lo sanno che se domani va bene, se mi arrabbio poi dopo passo del brutto Natale e poi succedono cose. Meglio non farlo arrabbiare. Succedono cose. No, però è particolare che Montella dica giochiamo contro un avversario purtroppo invincibile. E Montella ci ha giocato un mese fa e ha vinto con la Juve. Sì, infatti. Anche una bella partita, non casuale. C'era un po', non so, bisogna capire se è pretattica o se è rassegnazione. Se fosse rassegnazione sarebbe grave, no? Se questo messaggio arrivasse all'interno dello spogliatoio, per tornare a quello che diceva Guidolin, sarebbe un messaggio sicuramente negativo. Io credo che sia una forma a metà fra la scaramanzia, la pretattica e il voler tenere un profilo basso, che è la cosa che deve fare invece sicuramente il Milan oggi, nel momento nel quale si mette ad approcciare questa partita. Quindi credo francamente che ci sia un fondo di verità. La Juve negli ultimi anni è una squadra che disarma gli avversari, che porta ad avere un po' di rassegnazione, ma il Milan, soprattutto nella partita secca, ha delle possibilità. Franco Ordine, ciao! Eccomi qua! Occhio! Come va? Abbastanza bene, mio caro. Che hai fatto oggi? Hai dormito? Oh. Hai mangiato? No. Oggi mi sono pappato sia Sassuolo-Inter che poi Napoli-Torino. Vabbè, c'è di peggio nella vita, eh? Molto peggio, ma per chi ama il calcio è come se avessi mangiato il timballo di maccheroni che faceva mia madre. Ah, bravo, che non hai detto il caviale. Hai fatto degli esempi buone, stupidi col caviale. Hai detto una cosa seria. Il timballo, com'era sto timballo? Scusa. Madonna mia. Una roba mitica, perché lo faceva con i mezzi ziti. Ah sì, certo. E con dentro, ci metteva dentro, oltre che la mozzarella, le polpette e la mortadella. Mamma mia. Una roba adesso da andiamo fare a casa a mangiare, va. Sai che io ho mangiato un panino, ho mangiato un po' di cose al buffet a Sassuolo. Vabbè, però ho mangiato per i prossimi tre mesi. Devi stare calmo, Ordine. No, ma devi stare sereno, perché non sei lui. Lui inizia l'8 gennaio a fare quello la dieta. È un pasto che avrebbe fatto resuscitare i morti. Senti un po', ma Montella cosa fa? Scherza, fa pretattica quando dice, insomma, la Juve è un avversario purtroppo invincibile. Non mi dire che dice la verità, perché l'ha battuto un mese fa. No, ma non dice la verità, voglio dire, è una roba che ti può riuscire una volta, ma non è che è sempre Natale, c'è già stato il Natale per i milanisti con il gol di Locatelli, il gol tolto a Pjanic, quindi lui parte da questo presupposto, che, come dire, 9 su 10 la perdi, la decima l'hai già vissuta, e quindi non dico che si prepari alla mattanza, ma comunque, insomma, si prepara a una sfida molto complicata. Devo dire che per fortuna ha una sola, diciamo, dalla sua parte ha un solo dato positivo, e cioè che l'affronta con, diciamo, il meglio a disposizione di quello che può garantire la cifra tecnica del suo gruppo, e con Bacca che mi sembra leggermente meglio in ripresa dell'ultimo, sì. Dell'ultimo Bacca visto. Ma quindi gioca Bacca? Sì, sì, sicuro. Sì. Gioca Bacca, secondo me l'unica indecisione è se schierare Bonaventura davanti o a metà campo. Beh, però scusami, in una partita che si presume molto complicata contro un avversario più forte, più fisico, più sì. mentalmente preparato, sì. Allora perché non giocare con la Padula, che è un giocatore che ti aiuta in tutte le fasi del gioco e lo ha fatto sì. vedere anche in queste settimane. Sì, ho capito, la tua obiezione è un'obiezione diciamo così un po' pelosa. Se devi andare in guerra. No, sì, ho capito, io sono però... d'accordo con ordine su questo. Sì, però no, voglio dire, insomma, esistono, comunque esistono le categorie e obiettivamente Bacca appartiene a una categoria superiore rispetto a quella di La Padula, per cui proprio nella partita secca, secondo me Bacca comunque si lascia preferire, comunque è il titolare. Premesso che La Padula poi magari la categoria la supererà, perché sta facendo sì, bene. Sì, per carità, per carità. E però ecco, anche qua mi è venuto in mente... Come è venuto in mente un discorso che mi fece Carlo Ancelotti dopo, adesso stasera proprio faccio lo sborone, due sere dopo la finale di Champions di Atene, con la Coppa sul tavolo, in una tavolata abbastanza ristretta, lo ringrazio ancora per avermi regalato quella serata, e a un certo punto si parlava proprio di categoria di giocatori, e lui diceva ci sono dei giocatori che sono da grandi partite, cioè magari tu nelle 38, adesso non faccio nomi anche perché non me li ricordo, magari nelle 38 partite di un campionato non hai la continuità, però sono giocatori superiori e sono abituati alla grande partita, per cui nella grande partita ti devi fidare di loro, e ma credo che sia riferiva... un po' questo il concetto. Scusa, no? Scusa Pier, lui si riferiva espressamente a Inzaghi, perché ha vissuto tutta la vigilia di quella famosa finale, con l'idea lo faccio giocare, non lo faccio giocare, lo faccio giocare, non lo faccio giocare. E poi si è risposto e mi pare che abbastanza bene. Io ricordo che lo stesso dubbio lo ebbe Allegri a Berlino con Pirlo Sturaro. È esattamente questo, cioè... Chi gioca dei due, insomma. È esattamente questa cosa qui. È una cosa anche questa, sembriamo oggi una lezione di cose aziendali, ma è... personalità, carisma, statura, capacità, abitudine a certe sfide. Esatto. Senti poi, ma la frenatina del Milan, ha perso contro la Roma, pareggiato contro l'Atalanta, tutto fisiologico, c'è anche un pizzico di Iella, perché se Niang segna il rigore a Roma magari va diversamente, perché ieri sera le occasioni ci sono state, non lo so, vuol dire forse che il Milan sta rientrando nella sua dimensione? No, vuol dire soltanto che poi il campionato, lo dico a vantaggio di tutti quegli scienziati che dicevano il Milan è lì perché è fortunato, che poi durante il corso di una stagione ti capita la partita in cui ti va tutto storto e la partita in cui ti va tutto dritto. Obiettivamente queste ultime due partite in cui il Milan avrebbe potuto tranquillamente pareggiare a Roma e vincere ieri, trovarsi con 4 punti anziché un risicato 1 punto, rientra nella contabilità di una stagione che può e deve conoscere comunque, come direbbe Pier, l'alto e il basso, e quindi anche in questo caso mi pare tutto normale. Io dico soltanto che sarei molto più preoccupato fossi Montella se questo diciamo rallentamento nel risultato fosse scandito anche da prestazioni scadenti, invece non certo. Mi pare che sia così. No, ieri insomma il Milan ieri ha fatto la sua partita nel secondo tempo, soprattutto nel secondo tempo. Ci sono stati momenti in cui l'Atalanta ha banchettato abbastanza serenamente nella metà campo del Milan, e momenti però è stata una capitato partita... anche ad altri. Sì, ma assolutamente è un pregio credo del Milan essere stato capace in questa stagione ogni tanto di avere quei problemi. Io ricordo anche la Lazio San Siro prima di crollare, insomma, fare anche se certo. vi posso dire la mia sensazione è che in questa giornata di campionato si stiano rimettendo in fila i veri valori, cioè io credo che il Napoli e la Roma siano avanti al Milan, penso che la Lazio sì, secondo me è avanti al Milan, o comunque siamo sullo stesso livello, e l'Inter sia molto vicino al Milan. Questa è la sensazione, insomma, che si stiano un po' riallineando i pianeti. Basta guardare la classifica adesso, Juventus, Roma, Napoli, Milan, Lazio, vediamo dove si colloca questa sera. Le prime quattro secondo me sono abbastanza scritte. Secondo me la Lazio ha qualcosa in più sia del Milan che dell'Inter. Roma e Napoli sono avanti alla Lazio, ma sono dietro alla Juve. Secondo me la gerarchia è abbastanza scritta. Grazie Franco. Saluti, un abbraccio. Ciao, ciao, a tutti. Ciao, ciao. Grazie Franco, ordine, traffico, poi torniamo. Tutti convocati. Agli invidiosi. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Tutti convocati. Extraordinario año internacional porque fue campeón de Europa, ganó la Supercopa de Europa y se adjudica en este triplete de Zinedine Zidane el campeonato del mundo de clubes. Oh, allora adesso facciamo big due in Japan, sì, big in Japan. Facciamo due domandine rapide per Luigi Pardo, così vediamo se riesce a recuperare la sconfitta alla schedina. Ma male sono anche fa così, dai. Insomma, ricordiamo il di parziale. Chi è big in Japan? Di chi è big in Japan? So. Degli Alphaville. Vabbè, ma di che stiamo parlando? Ricordiamo il parziale 7-5 dopo le prime 8. Ma tu invece partite di essere strafelice che stai facendo un risultato clamoroso, ma perché devi rompere scatole a me? Sono due settimane che andiamo avanti, ho fatto 6, ho fatto 8. Allora, sei, non l'ho mai fatto, ho fatto 8, 7, 5 e poi avevo fatto peggio, e 8. 5. Ma che è ho 8? Fatto, ho fatto due volte 7, una volta 5, una volta 8, può essere. No, ho fatto due volte 8, una volta 7. Posso fare 9. Puoi fare 9, io te lo auguro. Due partite finiscono. Anche perché se uno tu fai 9 io faccio 7. Io ho il mio campionato capuano, non è che ho la rivalità con te. Io allora, spero di fare 7 stasera e mi sembra anche la portata. Possibile, sì. Devono vincere il Genoa e la Lazio. Abbiamo messo tutti e due. Uno, domandina, quante persone hanno vinto il Mondiale per club o l'Intercontinentale, prima da giocatori e poi da tecnici? Uno è Zidane, vabbè, l'ha vinto oggi, 4-2 contro il Kashima Antlers, mai supplementare, adesso ne parliamo. Poi? Non lo so. Uno è il nostro amico Ancelotti. Ancelotti, volevo dirlo, sto poi per dirlo. Tanto Ancelotti ha vinto tutto. Poi ce ne sono altri due, Kubia e Mujica. Quindi stiamo in Sud America. No, questo per dire che il 2016 è meraviglioso. In realtà ci ha regalato un vero allenatore. Sì. Era il 4 gennaio scorso che veniva proiettato sulla panchina di Benitez con tanto scetticismo. No, ma diciamo, guarda, Zidane, abbiamo parlato mille volte anche con Filippo Maria Ricci. Anche se posso dire senza nulla togliere a questa simpatica canzone degli Alphaville, alla competizione, io questo mondiale per club faccio proprio fatica ad appassionarmi. Tra l'altro l'anno in cui c'era l'Inter l'ho anche seguito, sono stato benissimo, 25 gradi a Abu Dhabi, è stato un momento meraviglioso e poi è stata una grande vittoria di quell'Inter lì, anche se poi ricorderai che dopo quella intervista rottura, di Benitez ci fu la rottura clamorosa, però comunque fu il titolo di campione del mondo per club per l'Inter, e però insomma la formula non mi fa particolarmente impazzire. Penso che Zidane questi complimenti se li strameriti, ma soprattutto per quello che sta facendo in Liga, che non avrei mai pensato, perché nella regolarità del campionato insomma stare avanti ha fatto fatica i primi mesi, adesso invece adesso c'è. Allora, io intanto Manchester City ha battuto l'Arsenal 2-1, saluto e ringrazio anche perché notte fonda Cesare Polenghi, che è un giornalista italiano che vive e lavora in Giappone. Ma l'hai chiamato adesso? Ma che ore sono? Questa settimana mi ha inondato di messaggi. Cesare, per dirmi, che ore sono? Guarda che è una storia straordinaria quella dei Kashima Antlers. Oggi quando li ho visti lì ai supplementari ho detto Cesare, che ore sono lì? Sono le 3. Ah, vabbè, pensavo peggio. Che si fa alle 3 a Tokyo? Cioè, sono abituato a vivere su questo fuso perché naturalmente devo seguire il calcio italiano internazionale, quindi più o meno sono più o meno sul vostro stesso fuso, sì, in realtà. Però... Che si fa alle 3 di notte a Tokyo? Ci sono locali? No, si guarda Juve-Roma, perché ieri notte guardava certo. Juve-Roma. No, Juve-Roma la guarda alle 5 e mezza di mattina, povero. Ah. Sì, 4.45. Comunque. 4.45, un buon orario. Un buon orario. Senti, dici qualcosa di Kashima Antlers. Ma è una storia molto interessante perché veramente è la squadra di un piccolo paese, aveva tipo 60.000 abitanti, penso, e quando la J-League è stata fondata nel 1991, poi è cominciata nel 93 ma l'hanno messa insieme come operazione commerciale nel 91, gli avevano dato lo 0,001% di possibilità di essere accettato fra i primi 10 club. Tipo il Leicester che vince il campionato in pratica, più o meno. Sì, più o meno è quella. Però di campionati hanno 28 su 24 per ora. Era la squadra di Zico, ci ha giocato anche Leonardo e hanno primo stadio solo per il calcio in Giappone. E niente, quest'anno ha avuto una stagione un po' strana perché ha avuto bene, innanzitutto il loro miglior giocatore se n'è andato via a metà anno perché è andato a giocare negli Emirati, e poi l'allenatore ha avuto un esaurimento nervoso, sono arrivati terzi, ma grazie ai playoff hanno vinto e poi hanno fatto questa cavalcata incredibile. Oggi purtroppo un po' di sfortuna, però insomma, sì, sì. Kashima è una città portuale, leggo, portuale Kashima, sì. Quanto, mare. A quanto è da Tokyo? A Tokyo sono in macchina tipo un'ora e mezza, un'ora e mezza. Ma c'è assolutamente niente. È uno dei posti dove ci sono meno cose in assoluto in Giappone. Tra l'altro anche era una, diciamo, era una città di un porto, sì, aveva anche la spiaggia così, ma per via delle tsunami hanno costruito praticamente un muro al posto della spiaggia, quindi non c'è neanche più la spiaggia. Vabbè, diciamo, non stai incentivando il turismo a Kashima, no. No, non c'è molto, assolutamente. Noi qua ma... abbiamo Kashina, sì. Gobba, che vabbè, è un po'. Dai. Vabbè, c'è Kashina Gobba, Colonia Montese. Sì, certo, Kashina Gobba, Kashima Antlers. Senti, ma secondo te domani mattina, fra due ore, quando ti svegli, che scrivono i giornali? Se la pigliano con l'arbitro, celebrano la quasi impresa? Perché c'è stata una pantomima, Sergio Ramos espulso, poi no, poi... Ma insomma, allora, diciamo che chiaramente non è stato un bel momento, anche perché insomma, poverino questo arbitro africano, insomma, sembrava un pochettino sperduto. Ma no, ci sarà sicuramente, in generale, sai, qui la questione è intanto non aver preso un imbarcato, no? È una questione, certo, di orgoglio, di aver finito bene, comunque aver portato il Real Madrid a supplementare. In Giappone l'orgoglio è molto importante. E poi un'altra cosa da considerare è che comunque in Giappone ci sono tantissimi tifosi del calcio europeo, e quindi sai, tanto è vero che la gente sperava qui che il Kashima Antlers facesse un miracolo, ci sono anche tanti fan di Cristiano Ronaldo e degli altri grandi giocatori del Real Madrid. Quindi, ma da qui il calcio è vissuto molto più come uno sport, come una festa, quindi non ci saranno drammi, speriamo piuttosto che, ma insomma, che questo ottimo risultato, che poi fa anche seguito, l'anno scorso Hiroshima è arrivato terzo, avesse avuto un centravanti probabilmente sarebbe andato in finale anche Hiroshima l'anno scorso, quindi speriamo che aiuti un po' il movimento che in questi ultimi 2-3 anni un po' in realtà il picco. Ma come si vive in Giappone? Tu sei là tutto... A me scusate, ma dei Kashima Antlers mi interessa poco. No, come si vive? Com'è la... Dove che si viva? Per esempio al mare, dove si va lì? C'è il mare? Sì, no, Kashima. No, in generale, che l'estate, che fai? Che mangi? Sì, in estate cosa faccio? In estate seguo la J-League, perché la stagione è come quella, cioè parte a marzo. Quindi non vai in vacanza, Cesare. No. Lavoro, insomma. Lavoro, vabbè. Il sushi, il sushi migliore, dovendo andare a Tokyo, il sushi migliore. Da chi si prende? Il sushi migliore, sì. Assolutamente. No, ma dove? Dove? Vuole un nome, perché deve andarci in vacanza, evidentemente. No, tanto possiamo fare pubblicità a un ristorante a Tokyo. A Tokyo, sì, non credo ci siano grandi problemi. Io a Tokyo ero sempre da Napoli. Ecco. Napoletano verace. C'è Napoli? Allora facciamo una cosa. Adesso una delle prossime volte facciamo un collegamento, magari di giorno alle 2, sì, così guadagniamo 4 ore dal ristorante Napoli, per commentare il campionato. Va bene, dai, facciamolo, dai. Ciao Cesare, grazie, buonanotte. Ciao. Un abbraccio, ciao. Che buonanotte. Ma adesso devi andarci a vedere Lazio Fiorentina, Genoa Palermo. Dai, noi ci fermiamo, è andata. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Andrea Roccabella e Filippo Aureggi in regia. Noi torniamo domenica 8 gennaio, perché certo, a differenza dei giapponesi, noi un paio di settimane... Grande vacanza. La domenica ci fermiamo. Faccio, insomma, una domenica è il 25 dicembre, l'altra è il 1 gennaio. Che partita farò? Non lo so. Il 25 dicembre. L'8 gennaio. Non lo so. Vediamo. Forse Napoli. Torino, ci sentiamo l'8 gennaio, tutti convocati. Torna ciao, invece domani, dopo il GR l'Europa alle 14. Buon Natale a tutti. Ciao. You are amazing. Thank you very much.